Mezzanotte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Ebbene sì, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, se ne vanno anche le ultime icone della nostra infanzia, o adolescenza, o giovinezza, o maturità, a seconda di quando si aveva quell'età nel momento in cui c'erano, se ne vanno, scivolano via i nostri miti collettivi, quelli molto popolari, quelli di massa. Chiude l'ex stabilimento Invernizzi a Caravaggio, nel Bergamasco, era diventata della francese Lactalis, e Susanna tutta panna se ne va quindi in pensione. Ve la ricordate, quella dei formaggini di massa, praticamente? Impazza adesso, vedo Filippo Oreggi, la paratecnica, molto dispiaciuto, ma sappiate che se avete tra le vostre mani Susanna tutta panna, che era un gadget che adesso è stato pensato e distribuito a dicembre in vista della possibile chiusura dello stabilimento ai dipendenti, è stata distribuita Susanna tutta panna. Adesso impazza su eBay, perché i dipendenti dicono: vabbè, non ci resta più niente tra le mani, neanche i formaggini vendiamo Susanna tutta panna. C'era anche la mucca Carolina, anche questa potrebbe valere moltissimo, vedevo già dei valori, pensate quali cifre, però ci sono molti collezionisti appassionati di vintage soprattutto. Insomma, anche questo se ne va, un altro pezzo del nostro passato non lontanissimo che sfuma. E per stasera ci sono naturalmente molti argomenti da trattare, tante storie, tanti argomenti. Vi ricordo che uno tra questi è la durissima denuncia dell'ONU, su questo vorrei sentire anche il vostro parere attraverso la pagina Facebook di Effetto Notte, per i messaggi al 349-238-6666, la dura denuncia dell'ONU contro il Vaticano, colpevole di non aver assunto le misure necessarie per affrontare i casi di abusi sessuali su minori e proteggere i bambini. E l'ONU invita, tra l'altro, questa diciamo la parte anche interessante e controversa, invita il Vaticano a rivedere le posizioni su aborto, contraccezione e a compiere maggiori sforzi in favore dei gay. Voi ritenete che su questi temi la Chiesa dovrebbe un pochino ammorbidirsi o deve seguire l'ortodossia? Effetto Notte, la pagina Facebook o i messaggi. Adesso però partiamo con quelli che sono stati gli argomenti principali della giornata. E notizia di questa sera, a proposito della compravendita dei senatori, il presidente del Senato Grasso annuncia che Palazzo Madama si costituisce parte civile. Governo vertice di maggioranza per la verifica, con l'impegno di approvare i decreti legge in scadenza. Terra dei fuochi, il decreto diventa legge, votano contro solo Movimento 5 Stelle e Lega. Abusi sui minori, l'ONU boccia duramente il Vaticano che replica no alle interferenze. Maltempo, a Roma danni per 234 milioni di euro, in tutta Italia piogge e disagi fino purtroppo a metà febbraio. E per il calcio, Balotelli riconosce la figlia con un tweet, intanto in campo per la Coppa Italia ci sono Roma e Napoli. E partiamo quindi dalla decisione del presidente del Senato Grasso, che ha annunciato che Palazzo Madama si costituisce parte civile nel processo della compravendita dei senatori, il cosiddetto caso De Gregorio. Ne va, spiega Grasso, della dignità dell'istituzione, e questo nonostante oggi ci fosse stato un orientamento negativo dai componenti del Consiglio di Presidenza a questa decisione. C'erano stati 8 sì e 10 no, e poi Grasso invece ha deciso: dobbiamo essere parte civile, è un dovere morale. È stato il via libera definitivo al decreto sulla Terra dei Fuochi. Il decreto, che sarebbe scaduto l'8 febbraio, riguarda la cosiddetta Terra dei Fuochi, cioè il vasto territorio tra Napoli e Caserta e l'Ilva. Il provvedimento è passato con 174 voti favorevoli, 58 contrari, 12 astenuti. Il Movimento 5 Stelle ha votato no, al pari della Lega Nord. SEL si è astenuta, tutti gli altri gruppi hanno votato a favore. Di questo argomento poi ne parleremo più tardi. Proseguendo sulla politica, oggi c'è stato il vertice tra esecutivo e maggioranza, sollecitata una verifica di governo. I recenti incidenti di percorso, dalla mini IMU all'ingorgo di decreti in Parlamento ed ancora l'offensiva alla Camera del Movimento 5 Stelle. Tanti motivi per chiedere al governo un cambio di passo che parta da una verifica che le forze di maggioranza ritengono non più rinviabile. Se serve un Letta bis si faccia, spiega il ministro Lupi, se c'è da coinvolgere Renzi si coinvolga, ma non si vada avanti così, aggiunge l'esponente del nuovo centrodestra. Sulla stessa linea anche il capogruppo di Scelta Civica Andrea Romano, che a Radio 24 dice: non sarei contrario ad un esecutivo Renzi. Sì. L'importante è girare pagina, perché certamente così non possiamo andare avanti. E non il mio timore è che il governo non arrivi al 2015, perché non si può far finta di niente. Bisogna fare molte riforme. Renzi a Palazzo Chigi è un'ipotesi che non esiste, fanno sapere però da Via del Nazareno. È il governo che deve cambiare passo, spiegano dalla segreteria del PD. E la direzione del partito di domani sarà l'occasione per un confronto proprio tra il sindaco di Firenze e il presidente del Consiglio. Da Palazzo Chigi definiscono intanto chiacchiere da transatlantico l'ipotesi di una staffetta tra Letta e Renzi alla guida dell'esecutivo. Letta, che ha visto oggi Alfano e Franceschini proprio per fare il punto sulla legge elettorale e sul rilancio dell'azione di governo. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E sollecita una svolta da mesi anche Confindustria. Oggi Letta ha visto Squinzi, il presidente, nel pomeriggio. Paese ostaggio di una burocrazia soffocante, ha confermato il presidente di Confindustria durante il convegno su energie e sviluppo sostenibile. Il presidente di Confindustria Squinzi domani alle 9 sarà ospite di Giovanni Minoli a Mix 24. Sentiamolo. Dalla effettiva semplificazione di regole e procedimenti amministrativi dipende lo sviluppo delle iniziative economiche, soprattutto quelle connesse alla realizzazione di investimenti produttivi per la tutela ambientale e l'uso efficiente delle risorse energetiche, nonché la creazione di nuovi posti di lavoro. Intanto, dopo le polemiche, dopo le proteste, a Strasburgo c'è stata la stretta di mano tra i leghisti e il capo dello Stato, che ha incontrato gli eurodeputati e ha difeso la scelta degli ultimi due esecutivi. La politica di austerità ad ogni costo non può più reggere, in Europa serve un cambio di rotta. Giorgio Napolitano lo ribadisce anche incontrando a Strasburgo gli europarlamentari italiani. Molti i temi al centro del confronto, dai Marò alla situazione del nostro sistema carcerario, ma il capo dello Stato replica anche alle critiche ricevute in questi giorni. I governi Monti e Letta non sono stati un mio capriccio, dice Napolitano, che poi si rivolge così ai leghisti che ieri lo avevano contestato durante il suo discorso all'Europarlamento. Io vorrei che voi foste europeisti critici e che tutti ci riconoscessimo in un atteggiamento non acritico, non inerme di fronte a quello che non va nell'Unione Europea, e sappiamo quante cose che non vanno, ma senza mettere in discussione dei capisaldi. A Montecitorio oggi intanto si è riunito il comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa, chiamato a decidere sulla richiesta di impeachment avanzata dal Movimento 5 Stelle nei confronti di Napolitano. L'organismo avrà 5 mesi di tempo per esaminare le accuse e poi chiederne l'archiviazione o sottoporle al giudizio del Parlamento in seduta comune. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E questa mattina c'è stata una nuova bagarre alla Camera durante il voto finale sul decreto carceri. Espulso il leghista Buonanno mentre prosegue l'ostruzionismo dei 5 Stelle. Le votazioni dovrebbero essere più o meno finite, ma probabilmente proseguono. Non ho visto aggiornamenti. Domani mattina l'Aula continuerà l'esame degli ordini del giorno. E poi c'è l'atto d'accusa dell'ONU verso il Vaticano per i preti pedofili. Il Vaticano prende atto, questo sui preti pedofili, il Vaticano cosa fa? Prende atto e annuncia una risposta, arriverà solo dopo aver approfondito i rilievi. Il Vaticano ha violato la Convenzione sui diritti dei bambini. Il Comitato ONU formula l'accusa senza giri di parole. La Santa Sede ha adottato politiche e pratiche che hanno portato a continuare abusi su decine di migliaia di bambini e all'impunità degli autori. Ecco perché le Nazioni Unite chiedono di rimuovere immediatamente dal loro incarico chi li ha commessi o ne è sospettato. La richiesta è chiara: assicurare alla giustizia tutti i pedofili presenti all'interno della Chiesa. Dura la replica della Santa Sede, che si è detta sorpresa perché sembra quasi che il documento fosse pronto già prima dell'incontro del Comitato con la delegazione del Vaticano. L'incontro si è svolto a metà gennaio a Ginevra. In quella sede il Vaticano ha respinto la richiesta di mostrare i dati in proprio possesso. Ha sottolineato però di aver aperto oltre 600 nuovi procedimenti per abusi e ha ribadito tutti gli sforzi fatti negli ultimi anni. Ma nella relazione il Comitato va oltre le accuse, invitando la Santa Sede a riformare il diritto canonico sugli abusi e a rivedere le politiche sulla contraccezione. Inviti che Roma bolla come tentativi di interferire con l'insegnamento della Chiesa. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Qual è la vostra opinione su questo argomento? La pagina Facebook di Effetto Notte, Effetto Notte trattino Roberta Giordano, oppure attraverso i messaggi al 349-238-6666. Ed è notizia di questi istanti, riguarda la presidente della Camera Boldrini. È stata intercettata presso un ufficio postale di smistamento vicino Milano una lettera minatoria, così si apprende, nei confronti della presidente della Camera. La busta, sempre secondo quanto si apprende, contiene anche un proiettile calibro 3. 3,80. Ci spostiamo in Abruzzo per la difesa oggi del governatore Chiodi, coinvolto nell'inchiesta sui rimborsi. Sentiamo cosa ha detto. Questa è la cosa che mi preme di più dire agli abruzzesi, che il loro presidente non ha abusato di una lira di quelli che sono i fondi degli abruzzesi. Così il governatore dell'Abruzzo Gianni Chiodi, nella conferenza stampa organizzata a Pescara l'indomani dell'interrogatorio in procura nell'ambito dell'inchiesta sul rimborsopoli regionale che lo vede indagato insieme ad altre 24 persone. A Chiodi vengono contestati 29.000 euro di rimborsi per missioni a Roma e in altre città, come quelle che lo hanno visto a Milano, Taormina, Parigi e Nizza. Tutte missioni istituzionali e correlate alle mie cariche, ha garantito il governatore. Lo stesso Chiodi ha fatto sapere che un'inchiesta è stata aperta anche sull'affaire Letizia Marinelli, ovvero l'amante del governatore, che ha ottenuto un incarico pubblico quadriennale alle pari opportunità regionali, e anche sul posto avuto dalla sorella di lei, Simonetta Marinelli, assunta a tempo determinato nella segreteria dell'assessore regionale al personale. Sono molto sereno perché tutto sarà chiarito, ha detto Chiodi, negando di avere mai agito per dare lavoro alle due. Non avrei mai fatto un'attività di favoritismo, di favoreggiamento nei confronti di una persona alla quale magari in quel momento aveva una relazione. Parla infine di una dignità che spera gli venga restituita dopo queste spiegazioni, confermando di essere sempre il candidato che Berlusconi vuole per l'Abruzzo. Sono pronto a fare la campagna elettorale, a guidare tutta la mia squadra a una nuova elezione. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E tocca anche continuare a parlare di maltempo, perché è ancora protagonista al centro-nord, dove continuerà a provocare danni anche nei prossimi giorni. A Roma ancora disagi e danni ingenti. Roma fa acqua da tutte le parti e non è un eufemismo. La città non ha retto al nubifragio dello scorso venerdì e mentre si archivia l'allerta meteo, non altrettanto si può dire per le criticità che il maltempo si è lasciato dietro. Il Campidoglio ha fatto una stima, 243 milioni di euro, tanto servirebbe per ripristinare le cose. Il 90% di questa somma per riparare i danni subiti da abitazioni private, strade, tubazioni e fognature, e la Confcommercio aggiunge altri 5 milioni per le attività commerciali. La perturbazione si sta lentamente allontanando, ma ha lasciato una città in ginocchio, pesanti disagi sulla rete stradale, frane, smottamenti, buche in ogni quartiere. Non è stata risparmiata nemmeno la centralissima via del Corso, a due passi da Piazza di Spagna e dai palazzi della politica. E in periferia non si sta certo meglio. Molte delle strade principali, le arterie che portano in città, sono bloccate o transitabili su un'unica carreggiata. Ed oggi pomeriggio è scattata una nuova emergenza traffico nell'area dello Stadio Olimpico, difficilmente raggiungibile dopo la chiusura di alcune rampe di accesso. La zona nord è in tilt in vista della semifinale di Coppa Italia Roma-Napoli che si giocherà stasera, prevista la presenza di 40.000 spettatori, molti dei quali arrivano da Napoli. Monica Ceravolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E nel Veneto a preoccupare soprattutto l'area del Padovano. Per domani criticità ancora da bollino rosso. E oggi 5 febbraio, giornata nazionale per la prevenzione degli sprechi alimentari, ce ne sono sempre moltissimi. Sentiamo il ministro dell'Ambiente Andrea Orlando. Si tratta di una sfida molto importante perché il nostro paese paga un tributo molto alto sia dal punto di vista sociale, persone che non riescono ad accedere al cibo e cibo che viene buttato, ma anche dal punto di vista ambientale. Produrre alimenti significa utilizzare risorse ambientali e farli diventare rifiuto significa generare dei costi per il loro smaltimento. Tutto questo può essere affrontato non soltanto con una più alta consapevolezza, ma anche e soprattutto con un'innovazione di carattere tecnologico e organizzativo. E siamo per chiudere al calcio con la Coppa Italia ancora protagonista, ne è vero Dario Ricci? Eh sì Roberta, vale la pena sciogliere subito i dubbi che la nostra collega amica Monica Ceravolo manifestava nel servizio che abbiamo sentito pochi istanti fa. Roma sì, diluvia l'accesso all'Olimpico che è stato sicuramente complicato dal maltempo e dalla pioggia che continua incessante appunto, ma si gioca, siamo al 29esimo del primo tempo e la Roma è in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Gervinho lanciato al 12esimo da una splendida verticalizzazione di Francesco Totti a tu per tu con il portiere del Napoli Reina. Probabilmente è scattato anche un filo in fuorigioco Gervinho, ma no, devo rivedere meglio il replay. Hai gli occhiali, ce l'hai gli occhiali Dario? Sì, però non so se bastano e questo quindi vale anche come rinnovo della patente questo gol. Poi vi tengo aggiornati nel caso, soprattutto quando sarò in giro alla guida, Roberta. Giusto, comunque, soprattutto nei nostri pressi, prego. Comunque ecco, bella azione di Totti che lancia Gervinho che è bravo a battere lui che non è poi un freddo sotto porta, stavolta in realtà è invece molto bravo a battere Reina in uscita e 1-0 per la Roma. Napoli però vivo che ha provato a reagire pochi istanti fa con un'azione di l'Higuain che ha lanciato Calleón, che ha mancato l'impatto e conseguentemente dove l'ha lanciato? L'ha lanciato sotto porta, lui, e poi Calleón lanciato e anche scivolato, visto che tra l'altro sta piovendo a Roma così come a Milano in modo veramente è il meteo globalizzato esattamente, Dario. Poi magari Giuliacci ci spiegherà meglio, ma ho anche dei dubbi che la partita possa arrivare alla conclusione, anche se il lavoro fatto sul terreno dell'Olimpico finora è perfetto, ma l'acqua è talmente tanta, staremo a vedere. Man mano ci dici, caro Dario, perché poi avremo anche un'altra curiosità che riguarda, diciamo, il mondo del calcio un po' a latere. Ora ci fermiamo, ci sono gli aggiornamenti per chi sta viaggiando e poi ci sono sempre i vostri canali, diciamo, di comunicazione diretta attraverso la pagina Facebook Effetto Notte o i messaggi al 349-238-6666. Pochi istanti. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Eccoci di nuovo insieme, sto leggendo alcuni dei vostri messaggi, poi darò più spazio tra poco. Ci sono intanto i primi ospiti fra alcuni istanti. Vi ricordo, se aveste mai acceso la radio in questo momento, ma vi ricordo sempre, se volete avere un racconto della giornata, poi un approfondimento con tanti ospiti, voci e opinioni, eccetera, accendete per favore puntualmente alle 21, ma ve li ricordo adesso, infatti. Lettera minatoria con proiettile recapitata alla Presidente della Camera Laura Boldrini, è stata intercettata in realtà presso un ufficio postale di smistamento vicino a Milano. Compravendita dei senatori, il Presidente Grasso annuncia che il Senato si costituisce parte civile. Vertice di maggioranza per la verifica con il Governo e con l'impegno di approvare i decreti legge in scadenza. Terra dei fuochi, il decreto diventa legge, votano contro solo Movimento 5 Stelle e Lega. Abusi sui minori, l'ONU boccia duramente il Vaticano che replica no alle interferenze. Il maltempo continua a Roma, danni per 234 milioni di euro. In tutta Italia piogge e disagi fino a metà febbraio. Per il calcio, Balotelli riconosce la figlia con un tweet. Intanto in campo per la Coppa Italia ci sono Roma-Napoli. Roma in vantaggio per un gol. No, ce n'è un altro di gol. Dario Ricci? Sì, eccomi Roberta, solo un'incursione per dirti che la Roma ha raddoppiato 2-0 per effetto dello splendido sinistro dai 30 metri di Strootman, che ha incenerito Reina 2-0, e quindi a questo punto solo Giove Pluvio sembra in grado di fermare i giallorossi. Staremo a vedere. Vedremo se è clemente o meno. Grazie Dario Ricci, e chiedo invece ai miei ospiti Marco Meloni, deputato PD, e Dorina Bianchi, vicepresidente dei deputati Nuovo Centrodestra, se siete per caso dei tifosi della Roma. Dorina Bianchi? No, io sono juventina, mi dispiace. Bene, allora lei questa cosa insomma non le mette inquietudine. Marco Meloni? Io tifo per il Cagliari, quindi bene, bene. Stasera non ci sono. Molto bene, stasera siete più tranquilli, non avete neanche bisogno di vedere la partita, insomma non vi sottraggo al match. Allora, oggi c'è stato, spiego alle ascoltatrici e agli ascoltatori, il vertice tra governo e maggioranza, tra i partiti di maggioranza, quindi PD, Nuovo Centrodestra e Scelta Civica, e, diciamo, per fare una verifica naturalmente, e si sono impegnati i capigruppo della maggioranza ad approvare in tempo utile al Parlamento tutti i decreti che sono lì congestionati. Però non credo che ci sia stato soltanto questo, Dorina Bianchi, no? Avete anche un po' parlato di quello che il programma di governo, questo impegno 2014, e voi avete fatto delle proposte con il Nuovo Centrodestra? Beh sì, noi rivendichiamo adesso il passaggio a una fase nuova, fatta innanzitutto da una politica più aggressiva per quanto riguarda il lavoro. Per già stata abbastanza aggressiva per ora, mi sembra. Dorina Bianchi, no, era per fare una battuta, più incisiva. Nel senso che noi abbiamo hanno discusso di sicuramente dei 6 decreti che saranno in scadenza entro febbraio, quindi anche un'organizzazione tecnica dell'aula alla luce anche insomma dell'ostruzionismo che c'è stato, e quindi la necessità anche di un nuovo regolamento della Camera. Però non c'è dubbio che il Nuovo Centrodestra ha rivendicato adesso un'accelerazione dopo la legge elettorale che verrà la prossima settimana, martedì della prossima settimana in aula, un'accelerazione sui problemi concreti, primo fra tutti quello del lavoro. Noi abbiamo già un disegno di legge che è presente in Parlamento sia alla Camera che al Senato. Pensiamo che bisogna dare certezze alle imprese con meno regole e meno tasse, e su questo bisogna lavorare immediatamente. E invece voi, come Marco Meloni, allora come PD, però bisogna dire che lei è un, diciamo, un fedelissimo di Letta, molto molto vicino, un consigliere praticamente di Letta, quindi fa un po' questo non mi fa essere meno del PD degli altri, anche. No, certamente, cioè, ci mancherebbe, però lei stesso, quindi cosa propone a Letta, che alla fine, diciamo, lei è al suo fianco, cioè, quindi da consigliere, cosa consiglia come PD e consigliere di Letta? Ma diciamo che noi siamo preoccupati di una cosa prima di tutto, che il Partito Democratico e il governo siano uniti nell'impegno di fare le due cose fondamentali che dobbiamo fare nei prossimi mesi: le riforme, la legge elettorale, le riforme istituzionali che si stanno avviando con un'ottima intensità e che devono essere perseguite però nei prossimi mesi, perché la legge elettorale è una cosa, l'abolizione della funzione legislativa del Senato e la riforma delle competenze Stato-Regione sono altre cose che richiedono passaggi più complessi, perché sono norme costituzionali, e dall'altro lato la prosecuzione e l'intensificazione delle misure per far ripartire la nostra economia, che sta ripartendo. I segnali ci sono e i dati lo dicono. L'ultimo trimestre dello scorso anno è stato per la prima volta dopo qualche anno di grandissima difficoltà, ha segnato un segno più: la fiducia delle imprese, la fiducia dei consumatori. Le difficoltà sono ancora tante e soprattutto noi siamo, però ci sono le condizioni per ripartire, ci deve essere una fiducia che noi registriamo all'estero e dobbiamo comprendere anche qua che deve essere alimentata. C'è un grande problema che, come in tutte le economie che escono dalla crisi, il lavoro segue successivamente la ripresa dell'economia, e quindi noi dobbiamo lavorare perché insieme all'economia riparta da subito il lavoro, l'occupazione giovanile. Credo che questa sia la priorità che dobbiamo far diventare una priorità europea, lo abbiamo fatto già nei mesi scorsi e ci sono anche risultati importanti che abbiamo ottenuto in Italia. Ci sono quasi 40.000 persone che hanno ottenuto un lavoro grazie agli incentivi del governo, ma la nostra preoccupazione deve essere questa, e devo dire che il Partito Democratico ha questa come priorità assoluta. Anche il nuovo centrodestra, ci confrontiamo con l'onorevole Bianchi questa sera, ha fatto proposte in questo senso. Io credo che il governo è già ripartito, lo si vede in questi giorni, ci sono molti provvedimenti e molte azioni che si vedono quotidianamente, ma col contributo dei partiti della maggioranza si può fare veramente qualcosa che non siamo del tutto riusciti a fare nei mesi scorsi, perché il rallentamento derivante dal fatto che c'era un partner scomodo perché non aveva interesse a governare, Berlusconi, c'è stato, adesso invece possiamo ripartire con più intensità. Dorina Bianchi, lei diceva ci sono 6 decreti ancora, soprattutto fra che attendono di essere smaltiti. Quali sono? Ci fa qualche esempio? 6 decreti che scadranno entro il 28 febbraio, tra cui lo svuota carceri, Destinazione Italia e altri 3 decreti, che sono lo spacchettamento, quello sugli insegnanti che verrà di nuovo alla Camera, e altre 2 adesso che mi sfuggono. Comunque però, no, le leggo, guardi, vedo un'agenzia di poco fa che riporta una dichiarazione di Francesco Paolo Sisto di Forza Italia, Presidente della Commissione Affari Costituzionali alla Camera, che dice: la scelta di Piero Grasso, quindi Presidente della Camera, del Senato, di costituire il Senato parte civile al processo sulla compravendita dei senatori è un attentato all'asse Berlusconi-Renzi. Lei che cosa ne pensa? Ma guardi, questa è una cosa che a me interessa poco. Io invece. Ma lei non lo considera anche lei un attentato? Questo lo considera un attentato contro questo asse, contro questo equilibrio che si è creato? Io devo dire che l'asse che mi interessa maggiormente è quello che diceva anche l'onorevole Meloni, nel senso che noi abbiamo bisogno oggi di rilanciare l'azione del governo. E sicuramente il nuovo centrodestra ha detto più volte che il sostegno del PD e quindi di Renzi è indispensabile a questo governo. Ecco il motivo per cui chiediamo che anche la parte renziana faccia finalmente parte del governo in un nuovo rimpasto. Anche se lei, tra sa l'altro, che Renzi la vede un po' come una trappola, questa è un po', diciamo, diffidente verso questo entusiasmo del nuovo centrodestra di Scelta Civica. No, io credo che come Renzi chieda la fiducia da parte di chi sta al governo verso, insomma, una sua vicinanza reale, non un desiderio di andare al voto, credo che anche lui si debba avvicinarsi con lo stesso sentimento. Poi devo dire che stasera sono, insomma, con l'onorevole Meloni, noi ci confrontiamo più volte anche nelle varie commissioni, e devo dire che finalmente sono, è musica per le mie orecchie sentire che finalmente si parli anche di riforme istituzionali, perché una delle problematiche che noi avevamo posto all'inizio quando si parlava di legge elettorale era proprio una partenza in parallelo alla Camera della legge elettorale e al Senato delle riforme istituzionali e del titolo quinto, perché crediamo tra l'altro che la stabilità e la governabilità di un futuro governo passano per forza di cose attraverso queste riforme, e il titolo quinto tra l'altro diventa indispensabile soprattutto per lo sviluppo delle aziende e la possibilità di attrarre investimenti anche dall'estero nel nostro paese. Senza queste modifiche credo che anche l'instabilità e la non certezza data da queste problematiche alla fine non attirino gli investitori, che invece abbiamo visto, devo dire, ho molto apprezzato l'impegno del tour nel Golfo di Letta in questi giorni per attrarre nuovi investimenti nel nostro paese. Volevo chiedere all'onorevole Meloni, Marco Meloni, secondo lei questo asse è in pericolo, Renzi Berlusconi, come dice Francesco Paolo Sisto di Forza Italia, e quindi questo potrebbe compromettere poi la legge elettorale e gli altri accordi fatti? No, a me spiace, perché io capisco che sia una abitudine dei parlamentari di Forza Italia a cercare di difendere oltre ogni ragionevolezza il proprio leader estromesso dal Parlamento, però questa cosa è naturale, il Senato è parte lesa, è naturale che si costituisca parte civile in quel procedimento che riguarda reati gravissimi, poi vediamo come andrà, perché sappiamo tutti cosa significa utilizzare del denaro per far cambiare partito e voto a dei parlamentari, però che l'asse non si rompa per volontà di nessuno sta anche nel fatto che il Partito Democratico ha sostenuto questa esigenza. Il Partito Democratico è il primo soggetto, il segretario Renzi, a aver voluto non un asse privilegiato, ma coinvolgere tutti in un processo di riforma che non può partire con l'errore che ha caratterizzato per esempio la riforma della legge elettorale nel 2005, il porcellum fatto dal centrodestra da soli e con una enorme fretta e con un colpo di mano. Queste riforme devono coinvolgere tutti e io credo che si debba essere sereni. Quella vicenda è una vicenda che riguarda la magistratura e riguarda possibili reati di cui è imputato e non è ancora stato condannato, per cui ha tutti i diritti di difendersi l'ex senatore Berlusconi, ma non c'entra nulla con i problemi su cui ci stiamo confrontando. Meloni, a questo proposito, invece, con i vostri problemi invece interni al PD, domani c'è la direzione del PD, sinteticamente che ci dobbiamo lasciare, che cosa affronterete, che cosa vi direte? Allora, domani credo che si affronterà principalmente il tema delle altre riforme istituzionali, cioè la riforma delle competenze tra Stato e Regioni e appunto del superamento del bicameralismo, e io credo che sarà anche l'occasione per discutere di come collegare l'avvio di quel motore che sta già partendo e la prosecuzione di quell'attività con l'altro motore o l'altro polmone, se vogliamo dirla diversamente, che dovrà reggere l'azione di quest'anno, cioè il patto di governo impegno 2014. Credo che ci si confronterà su questi temi e io capisco che le ricostruzioni giornalistiche debbano quotidianamente tentare di alimentare divisioni. Io credo che, come siamo stati l'altro giorno, qualche impegno ce l'avete messo, comunque. Sì, anche noi ci mettiamo il nostro, è chiaro, ecco. Però credo che saremo compatti. Benissimo, così parlate direttamente voi e dite qual è la vostra verità, insomma, qual è la realtà. Grazie Marco Meloni del PD, grazie, buon lavoro a Dorina Bianchi. Grazie, buona serata. Arrivederci. Bene, adesso ci fermiamo perché c'è la pausa pubblicitaria e sto già vedendo dei vostri messaggi, per esempio un messaggio sull'atto d'accusa dell'ONU verso il Vaticano, tra poco ne parleremo. Fa bene l'ONU a bacchettare il Vaticano, dice un ascoltatore o ascoltatrice, la Chiesa è contro natura, si conceda il matrimonio al clero. Tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano, ancora con voi. Le notizie adesso ve le ricordo, quelle principali della giornata. Fra queste, la dura accusa dell'ONU nei confronti del Vaticano. Di questo parleremo tra pochissimo e su questo potete continuare a scrivere le vostre opinioni alla pagina Facebook di Effetto Notte oppure attraverso i messaggi al numero 349-238-6666. Ma ripartiamo dai titoli. Il processo sulla compravendita dei senatori, il Senato si dichiara parte civile contro Berlusconi, questa è la scelta di Grasso, del Presidente del Senato, che dice è un dovere morale. In un ufficio postale di smistamento a Milano è trovata una lettera con proiettile indirizzata a Laura Boldrini. Governo vertice di maggioranza per la verifica con l'impegno di approvare i decreti legge in scadenza. Terra dei Fuochi, il decreto diventa legge, votano contro solo Movimento 5 Stelle e Lega. E poi per l'ONU avete appena sentito che c'è questo atto d'accusa, boccia duramente il Vaticano che replica no alle interferenze. Continua il maltempo, molti danni, milioni di danni a Roma e in tutta Italia continuano piogge e disagi e continueranno anche fino a metà febbraio. Per il calcio la Coppa Italia con Roma-Napoli in campo, la Roma conduce per il momento 2-0 e poi Balotelli che riconosce la figlia con un tweet. E saluto a questo punto Carlo Marroni. Ciao Carlo. Ciao, buonasera a te. Vaticanista del Sole 24 Ore. Per questa notizia, che è stata un po' come un fulmine sul Vaticano oggi, questa durissima denuncia dell'ONU contro la Santa Sede, colpevole, secondo l'ONU, di non aver assunto le misure necessarie per affrontare i casi di abusi sessuali su minori e proteggere i bambini negli anni, no? Non riconoscendo la portata dei crimini e permettendo quindi la prosecuzione di abusi e l'impunità degli autori. L'ONU invita tra l'altro il Vaticano a rimuovere immediatamente dai loro incarichi i colpevoli, a valutare il numero dei bambini nati da preti cattolici, scoprire chi sono e prendere le misure necessarie per garantirne i diritti. Carlo, insomma, veramente una denuncia molto molto forte che il Vaticano probabilmente in questo momento non si aspettava, anche perché Papa Bergoglio è il Papa un po' tra virgolette considerato rivoluzionario, quello che sta dando una svolta alle ultime vicende un po' deplorevoli che erano state quelle del Vaticano, dei vari scandali. Come mai questa denuncia? Forse hai la radio accesa, è possibile Carlo? No, io non ho nulla acceso. Ah, perché sento un po' la mia voce che... No, mi dispiace, sono un telefono fisso. Un po' sdoppiata. Comunque... bene. No, guarda, ci sono due livelli. Il primo era attesa questa diciamo, rapporto dell'ONU dopo che un mese fa, poco meno di un mese fa, avevano incontrato i rappresentanti del Vaticano e sembrava che dalla riunione fosse emersa una grande disponibilità e i toni fossero molto scesi, perché insomma tra l'ONU e il Vaticano c'è una storia abbastanza lunga di contrasti molto forti, sempre sui temi dell'omosessualità, dell'aborto. La Chiesa, il Vaticano ha sempre denunciato lo strapotere di una deriva detta il Vaticano relativista delle organizzazioni non governative a favore appunto specialmente nei luoghi del terzo mondo e l'interruzione di gravidanza. Ma al di là di questo, diciamo così, i toni oggettivamente sono molto forti, e gli abusi ci sono stati gravissimi, enormi, un fenomeno spaventoso, però vero è anche, per dire che le cose che cambiano, che i responsabili riconosciuti di questi eventi, di questi fatti, sono stati tutti rimossi. Dal 2002 sono stati rimossi i vescovi, intere diocesi hanno pagato, in America per esempio la diocesi di Los Angeles ha rimborsato 660 milioni di dollari di risarcimenti, il vescovo di Boston, un cardinale, è stato rimosso. Forse oltre, scusami se ti interrompo Carlo, oltre a essere rimossi, forse l'ONU dice insomma vanno dati poi alla giustizia civile, non semplicemente rimossi e magari mandati da un'altra parte. Certo, ma infatti è un processo in corso che va dato atto al Papa precedente, a Benedetto XVI, di aver dato una forte svolta dal 2010 in poi. È cambiato molto da quel momento. Ricordiamoci che nel 2010-2011, ci ricordiamo le giornalate del New York Times, ma anche in Italia c'è stata una grande questione. In Italia il fenomeno è stato sentito meno, soprattutto è stato sentito in altri luoghi del mondo, in Germania per esempio. Sono state commissariate intere chiese, sono stati spostati vescovi, sono stati rimossi preti. 400 preti nel biennio 2011-2012 sono stati ridotti allo stato laicale, sono stati buttati fuori dalla chiesa. 400 preti, una cifra uscita 20 giorni fa, cioè adesso non è successo nulla. Naturalmente il fenomeno è talmente vasto. In tutto questo stupisce, questa è la seconda parte della tua domanda, che secondo me è la parte anche insomma, politicamente interessante, perché viene fuori ora, cioè con Papa Bergoglio che, raccogliendo sicuramente l'eredità di Benedetto XVI in questo caso, però allo stesso tempo ha creato un forte consenso. che non aveva il suo predecessore. Questo forte consenso della Chiesa Cattolica probabilmente, e questo secondo me, la politica è fatta anche di queste cose, diciamo così, le maggioranze che all'ONU comunque governano e che non sono mai state favorevoli alla Chiesa Cattolica, questo è un fatto, diciamo, che non ci stiamo dicendo io e te ora, ma è sempre stato. Non è escluso che, insomma, vogliono dare un segnale che tutto questo consenso mondiale che Bergoglio ha, abbiamo visto, uomo dell'anno per Time, eccetera, eccetera, insomma, gli hanno dovuto dare un segnale che così non è facile sfondare così facilmente in un anno o meno di pontificato. Questo secondo me, allora non è un caso che, non è che la condivido, ma non è un caso che l'ambasciatore del Vaticano all'ONU ha accusato le organizzazioni non governative di esercitare una lobby ideologica su questo tema. Allora, c'è del vero in questo, come c'è del vero che la Chiesa Cattolica intesa come il Vaticano non ha fatto a suo tempo il suo mestiere, cioè quello di governare. Però questa è una questione complessa, nel senso che se un prete in un seminario 30 anni fa commise dei reati, non c'è una responsabilità oggettiva del Papa o a Roma, non è una multinazionale, non è una società per azioni dove l'amministratore delegato alla fine è sempre responsabilmente oggettivo. Questo non lo dico io, l'hanno detto i tribunali americani che sono stati più duri su questo tema. Non c'è una responsabilità oggettiva del Vaticano, c'è stata per esempio del capo diretto del prete suddetto, e questo infatti è stato visto, i preti condannati, soldi risarciti, cioè qualcosa è successo, non è che non è successo niente, anche in Italia, anche a Roma, il famoso caso di Don Ruggero Conti, la giustizia civile, falso corso, non è che viene ostacolata. C'è stato in passato una grande omertà, questo è sicuro, soprattutto in alcune realtà, i famosi legionari di Cristo, che sono stati praticamente azzerati durante il pontificato di Wojtyla, questo è un'ombra su quel pontificato, nonostante venga fatto santo e tutti riconoscono la santità, però in quel pontificato non fu fatto un'operazione molto dura, ecco, su questo fronte. Questo, è vero. Senti, Carlo Marroni, poi invece rispetto alla richiesta da parte dell'ONU anche di rivedere le posizioni da parte del Vaticano su aborto, contraccezione, di ammorbidire la linea nei confronti dei gay, ti leggo qualche messaggio arrivato dagli ascoltatori e poi mi dici che cosa ne pensi di questa richiesta. Alessandra dice: la solita storia verso i cristiani cattolici, quindi verso la Santa Sede, puro razzismo politico, intolleranza e sempre due pesi, due misure. Poi Ele scrive: può anche rimanere ferma sulle sue decisioni, ma uno, dice, deve punire severamente coloro che hanno fatto quello che considero il male assoluto. Due, visto che ha detto di non volere interferenze, la Chiesa dovrebbe fare altrettanto quando si tratta della politica italiana. Tre, le leggi laiche su aborto, contraccezione e sforzi in favore dei gay sono di competenza degli stati, non dei religiosi. Sì, molte cose, tutte insieme. Sicuramente la prima è quella che l'ONU, diciamo così, questo lo direi qualunque fosse l'oggetto del loro interesse, è andato oltre i suoi compiti, perché se dice alla Chiesa fai del tuo dovere nei confronti dei ragazzi e dei bambini, perché questo è un comitato per l'infanzia, quello che si è espresso, ha ragione, e per l'infanzia mai troppi sono gli sforzi. D'altra è dire cambia opinione su aborto, omosessualità e contraccezione, quello è un fatto interno alla Chiesa, la Chiesa la pensa come gli pare, esattamente come le ONG non potrebbero essere diciamo costrette a cambiare opinione. Certo, loro... non è una costrizione, probabilmente è una sollecitazione che forse anche nel senso legittima, poi il Vaticano la prende come prende. Adesso, no, non so se sia legittima, perché è l'ONU che parla, non è un'organizzazione privata. Cioè, io da privato posso dire a un prete pensala diversamente perché secondo me è giusto, ma l'ONU rappresenta tutti, non può dire, non può dire a uno Stato, lo Stato islamico cambia religione, cioè, ognuno c'ha la religione che vuole, quindi questo, anzi secondo me bisogna difendere la libertà di ciascuno di esprimere la propria opinione, poi sta a ogni cittadino dire che non seguo i precetti della Chiesa. Se uno Stato, e qui partiamo alla seconda o terza domanda, che lo Stato italiano si è fatto influenzare, è vero, c'è stata questa gravissima interferenza, influenza, va detto anche che i politici italiani non aspettavano altro che farsi influenzare, bastava non farsi, come ora succede da un po' di tempo, cioè grazie, ora questo lo dico, grazie a un politico, cioè un Presidente del Consiglio cattolico, tornando un cattolico ha preso le distanze dalla Chiesa. Cioè non quindi c'è, insomma, indipendenza e autonomia. Carlo Marroni, dobbiamo lasciarci perché mi dicono che abbiamo assolutamente adesso la viabilità. Ti ringrazio, Carlo, poi vedremo, insomma, il Vaticano dice che darà una risposta. Padre Lombardi, il portavoce, ha detto: noi abbiamo preso una linea di trasparenza sulla pedofilia, andremo avanti in questo senso. Sentiremo poi nei prossimi giorni altre reazioni. Grazie Carlo Marroni, viabilità. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Sono adesso i nostri minuti europei. Continuano le manifestazioni, come sapete, in Ucraina. Il presidente Yanukovych potrebbe designare un nuovo premier la settimana prossima. Questa per il capo dello Stato è una settimana di consultazioni. Ieri sera è arrivato a Kiev il capo della diplomazia, la capo della diplomazia dell'Unione Europea, Catherine Ashton. Domani è il turno del sottosegretario agli esteri americano Victoria Nuland, mentre venerdì Yanukovych dovrebbe incontrare Putin a Sochi. Oltre al ruolo della Russia, determinante sarà quello dell'Europa, naturalmente. Nel vecchio continente alcuni paesi hanno cambiato posizione da qualche settimana a questa parte. Allora sentiamo l'analisi di Germano Dottori, docente di studi strategici alla LUISS di Roma, al microfono di Valeria De Rosa. Europa 24 notte. Verso le europee. Il problema non è quello che succede veramente dentro l'Ucraina, ma tutto quello che si muove intorno. Qui la novità sbalorditiva è che la Germania si è messa in rotta di collisione con la Russia. E questa è la prima volta che capita dalla caduta del muro di Berlino. Ed è una cosa che può modificare profondamente tutta la geopolitica europea. Secondo lei, fino a questo punto, l'Europa come si è mossa? L'Europa si è mossa formalmente nel senso del sostegno a coloro che protestano a Kiev. Ma dietro tutto questo, le posizioni non è che siano state fino a pochi giorni fa così chiare. Soprattutto era molto ambigua la posizione della Germania, probabilmente anche perché erano in corso le trattative per la formazione del governo di coalizione. Ora che il governo è nella pienezza dei suoi poteri, emerge questo nuovo disegno tedesco che probabilmente è determinato dalla volontà di assumere un ruolo di primo piano nello spazio ex sovietico. Tra l'altro, fatto importante, la nuova presa di posizione della Germania verso la Russia si associa a queste dichiarazioni di altissimo profilo delle massime cariche della Repubblica Federale, che parlano anche di una possibilità che la Germania eserciti un ruolo di più alto profilo anche dal punto di vista militare nelle crisi internazionali. Sostanzialmente la Germania entra nella fase della sua maturità, intendo dire la nuova Germania riunita nata dalla caduta della DDR. Quindi secondo lei questa crisi si risolverà, diciamo così, a favore di una visione più europea, cioè l'Ucraina poi rientrerà nell'orbita dell'Unione Europea? È possibile, ma secondo me non è un processo del tutto indolore, intanto perché evidentemente l'Ucraina è un paese molto complesso in cui esistono delle regioni che gravitano fortemente sulla Federazione Russa ed esiste una provincia, la Crimea, i cui abitanti hanno addirittura in larga maggioranza il passaporto della Federazione Russa. Tra l'altro in Crimea, Sebastopoli ha sede la principale base della flotta russa del Mar Nero. Io temo piuttosto che se Kiev si avvicinerà maggiormente all'Unione Europea possano derivarne delle tensioni sull'unità nazionale del paese, al limite anche delle secessioni, e magari un intervento russo a sostegno delle province o regioni che si separassero da Kiev, un po' come è successo in Georgia nel 2008. Ma non sono cose che si risolvono nell'arco di un giorno, una settimana o mesi, sono processi che possono interessare anche anni. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Invece adesso parliamo del decreto legge che è passato sulla terra dei fuochi, ne parliamo con Paolo Panceri. Ciao Paolo. Sì, ciao Roberta. Il decreto è diventato legge oggi perché il Senato ha dato l'ultimo via libera con 174 sì, 58 no e 12 astenuti. In breve vi spiego quali sono i punti più qualificanti della legge. Il provvedimento prevede un nuovo reato che si chiama combustione illecita dei rifiuti. Inoltre, entro 15 giorni da quando la legge entrerà in vigore, sono previste indagini tecniche per la mappatura dei terreni della regione Campania destinati negli ultimi 20 anni all'agricoltura o che sono stati utilizzati a uso agricolo anche temporaneo. I proprietari di queste aree dovranno consentire le indagini, altrimenti finiranno in una lista nera che potrebbe escluderli in futuro da finanziamenti o incentivi pubblici. Infine, nel biennio 2014-15 sono previsti 50 milioni che verranno spesi per esami medico-sanitari sulla popolazione delle due aree, sia quella dell'Ilva sia quella della Terra dei Fuochi, cioè quella vasta area che si trova tra Napoli e Caserta, tanto per intenderci. Per quanto riguarda l'Ilva invece, si introduce tra l'altro una speciale procedura che prevede interventi di tutela ambientale e sanitaria nell'area dello stabilimento. Poco fa abbiamo sentito Don Maurizio Patriciello, il parroco di Caivano, nel Napoletano, che è da sempre in prima linea contro i roghi inquinanti. Don Patriciello, come sentiremo adesso, si dice soddisfatto della legge, che però a suo avviso è soltanto un primo passo verso un altro, verso un'altra serie di cose che devono essere fatte. Sentiamolo. Noi intanto siamo contenti perché per la prima volta qualche cosa è successo e quindi noi per la prima volta siamo contenti di quello che è successo. Siamo contenti anche delle modalità. Cioè, per la prima volta mi sembra che veramente il governo e il Parlamento si mettono in ascolto dei cittadini, e questa per me è una cosa bellissima. Se adesso questo decreto che è passato anche al Senato è visto come un punto d'inizio, io sono contento. Certamente non è un punto di arrivo, assolutamente no. Ci sono ancora tante cose da migliorare, tante cose da guardare che il decreto non ha preso in considerazione. Ecco, secondo lei cosa si deve fare in seconda battuta a questo punto? Ma in seconda battuta intanto bisogna arrivare ai mandanti, che si vada nelle campagne ad arrestare chi appicca i roghi mi può fare anche piacere, però la domanda è un'altra: che cosa è che brucia e da chi viene? Bisogna risalire la filiera e arrivare ai mandanti. I mandanti sono gli industriali. Per questo noi stiamo chiedendo, e però c'è stata proprio da questo punto di vista qua c'è stata proprio una volontà di non ascolto. Stiamo chiedendo la tracciabilità di tutto ciò che arriva in Campania e che scende lungo l'Italia. Insomma, questa tracciabilità ancora fino ad oggi non ce l'abbiamo. Poi l'altra cosa, guarda, la giustizia è umiliante, mortificante, deprimente per una democrazia, per i magistrati, per le persone colpite, che si celebrano processi, che riconoscono i colpevoli e poi questa gente viene mandata a casa con una stretta di mano, un arrivederci e grazie, perché ormai tu gli è caduto in prescrizione. Questa maledizione della prescrizione per questi reati non ci deve stare assolutamente. E questo è Don Patriciello, grazie per Paolo Panceri. Questo era appunto il decreto legge passato oggi sulla Terra dei Fuochi. Noi ci sentiamo tra pochi istanti e vi ricordo poi i fatti principali.